In quel tempo Gesù disse: Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Questa parola guai a te non è tanto una minaccia, quanto invece è una commiserazione. Gesù sta dicendo: povera te, Corazin, povera te, Betsaida. Ma al posto di queste due città potremmo sostituire anche i nostri nomi: povera te, Tiziana, povera te, Simona. Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, perché se fossero state fatte, date tutte le grazie che sono state date a voi ad altre persone, fai conto a Patrizio e Raffaele, avrebbero già da tempo, si sarebbero convertiti. Ecco. Ognuno di noi ha ricevuto tante grazie dal Signore. E questo è un po' il senso di questo brano, cioè Gesù sta dicendo di rientrare in noi stessi e di vedere quante grazie abbiamo ricevuto. E se altre persone avessero ricevuto le grazie che abbiamo ricevuto, forse queste altre persone sarebbero state più consapevoli, avrebbero magari condotto una vita migliore, una vita più grata. Ecco, noi spesso manchiamo di questo, manchiamo di gratitudine. E come mai manchiamo di gratitudine? Prima di tutto perché non ci rendiamo conto dei doni che abbiamo ricevuto. Sapete quando ce ne rendiamo conto? Soltanto quando stiamo per perderli. Per esempio, io, come sapete, sono malata. E non ho mai considerato la salute un dono. Forse, vabbè, uno quando è giovane non ci pensa, dà per scontato che deve essere sano. Ma effettivamente la salute è un dono. Ma adesso che la sto perdendo, ovviamente mi rendo conto del grande valore della salute. Allora, ecco, oggi vogliamo, renderci conto dei doni che abbiamo ricevuto. E quando ci accorgiamo che alcuni doni li stiamo perdendo, non possiamo avercela col Signore, ma dobbiamo essere grati per tutti gli anni in cui ce l'ha concessa. Invece noi di solito, ad esempio nel caso mio, invece di pensare: ah, grazie Signore che fino a 40, 45 anni mi hai dato la salute, mi viene da dire: ah, perché Signore non ho più la salute? Invece dovrei dire grazie Signore per i 45 anni in cui ho vissuto abbastanza bene, abbastanza in salute. Ecco, noi vediamo più quello che non abbiamo più, invece di ringraziare per quello che abbiamo avuto per così tanto tempo. Allora, il proposito di oggi vuole essere quello, prima di tutto, di renderci conto dei doni che abbiamo ricevuto, prima ancora di scontrarci con la realtà della carenza di questi stessi doni che magari potremmo avvertire. Quindi, prima cosa, renderci conto dei doni che abbiamo e seconda cosa, essere grati sia di quelli che stiamo perdendo, sia di quelli che invece continuiamo a mantenere. E per essere grati, il segno che siamo veramente grati è se non li possediamo per noi stessi, ma li utilizziamo per il bene di nostro, ma anche del prossimo, perché a questo sono stati deputati, ci sono stati dati proprio per servire il Signore e le persone con le quali viviamo. E buona giornata.